imparare, un tremoto temporale, un tremoto temporale che pagare a rimbombare, un tremoto temporale che pagare a rimbombare, si va a